che si veste un po' a festa, pronta a partire anche per chi ci resta. Ma non per questo ti senti spaesato o con il bisogno di vederti arrivato. Se non è quello che stavi cercando, non t'abbattere e voltati indietro. Troverai spazio per il tuo malumore, lì ce lo anneghi e crei più dolore. Una città è già tanto grande che ci può stare tutto quello che pensi. Da una città non avrai da temere, non avrai tempo né mattine né sere. Qui il mondo è meno brutto, la nebbia è dappertutto, ma passerà e non ti toccherà anche se ci pensi ancora troppo. Lo specchio non l'hai rotto, fortuna avrai in questa tua città con me, che non t'ho visto mai sognare su una panchina con me, finché il tuo treno partirà domattina. Ci puoi sempre stare, ha bisogno di noi per non invecchiare. Ad una città non si mette mai il punto, è lì sempre pronta anche se ha dato tanto. Qui il mondo è meno brutto, la nebbia dappertutto, ma passerà e non ti toccherà anche se ci pensi ancora troppo. Lo specchio non l'hai rotto, fortuna avrai in questa tua città con me, che non t'ho visto mai sognare su una panchina con me, finché il tuo treno partirà domattina.